Ad alta voce, Massimo Popolizio legge I vecchi e i giovani di Luigi Pirandello. Nella casa di donna Caterina Auriti Laurentano, il giorno delle elezioni erano raccolte intorno a Roberto i pochi amici rimasti fedeli, riveduti in quei giorni e mutati come lui dal tempo e dalla vicenda della vita. Per un momento negli occhi di ciascuno, abbracciando l'amico, era guizzato lo sguardo della gioventù, di quei giorni lontani, ignari di ciò che la sorte riservava. E subito dopo, fra un lieve tintinnio del capo, quegli occhi s'erano velati di commozione, mentre le labbra si schiudevano a uno squallido sorriso. «Che ci avrebbe detto?» esprimevano quello sguardo velato e quel sorriso. «Chi ci avrebbe detto allora che un giorno ci saremmo ritrovati così, che tante cose avremmo perduto, che erano tutta la nostra vita allora e che ci sarebbe parso impossibile perdere? Eppure le abbiamo perdute e la vita ci è rimasta così, questa». Più penosa ancora era la vista di qualcuno che non s'era accorto o fingeva di non accorgersi delle sue perdite e lo mostrava nella cura della propria persona invecchiata e raggrinzita, da cui spiravano compassionevolmente affievolite le arie e le maniere di un'altra età. Ciascuno s'era adattato alla meglio alla propria sorte, s'era fatto un covo, uno stato. Sebastiano Ceraulo, avvocato di scarsi studi, fervido improvvisatore di poesie patriottiche negli anni della rivoluzione, giovine, allora animoso, impetuoso, con una selva di capelli scarmigliati, era entrato per favore come segretario negli uffici della provincia e si raffiliava ora sul cranio, con miserevole studio, i quattro lunghi peli incerottati che gli erano rimasti. S'era ingrassato enormemente. Aveva preso moglie, ne aveva avuto cinque figliole, ora tutte smaniose di trovar marito. Un altro, Marco Sala, condannato a morte dal governo borbonico, e pur non di meno tante volte dall'esilio venuto in Sicilia travestito da frate per diffondervi segretamente i proclami del Mazzini, s'era dato prima al commercio dello zolfo. Aveva avuto fortuna per alcuni anni, poi un tracollo. E per parecchio tempo aveva mantenuto col giuoco la famiglia. Alla fine aveva avuto il posto di magazziniere dei tabacchi. Rosario Trigona, che nella giornata del 15 maggio del 1860, a Girgenti, mentre Garibaldi combatteva a Calatafimi, era uscito solo, pazzescamente, con altri quattro compagni, la bandiera tricolore in una mano e uno sciabolone nell'altra, incontro ai 3.000 uomini del presidio borbonico, e che inseguito e tempestato di fucilate era scampato per miracolo e aveva raggiunto a piedi Garibaldi vittorioso, correndo di giorno e di notte e sfuggendo all'esercito regio che si internava nella Sicilia in cerca del filibustiere, il quale era intanto a Civilrossa sopra Palermo. Rosario Trigona, disfatto adesso dalla nefrite, gonfio, calvo, sdentato e quasi cieco, sovraccarico anch'esso di famiglia, vivucchiava miseramente col magro stipendio di vice segretario alla Camera di Commercio. E Matteo Gangi, che aveva buttato la tonaca alle ortiche per prender parte alla rivoluzione, ora asmatico, rabbioso, con la barba e i capelli e le foltissime sopraccigli ritinti di un color rosso di carota, insegnava nel ginnasio inferiore a lauda est leta, e lieta un corno, soggiungeva ai ragazzi con tanto d'occhi sbarrati, ma che lieta, non ci credete, canda perché ha fame, canda per chiamare, lieta un corno. Contrastava con questi Filippo Noto, alto, magro, appassito, ma ancora biondiccio e azzimato. Prima del 60 si era battuto in duello con un ufficialetto borbonico per motivo di donne ed era stato perseguitato. Quell'avventura amorosa era divenuta per lui un precedente patriottico. Ma si impicciava poco di politica, studiando molto, era riuscito a tenersi a galla, a rinnovarsi coi tempi, pur rimanendo indifferente, conservatore. Passava per uno degli avvocati più dotti del foro siciliano ed era spesso chiamato a difendere le più importanti cause civili anche a Palermo, a Messina e a Catania. Questi cinque amici e il canonico Agrò si sforzavano di tener desta la conversazione parlando di cose aliene, di avvenimenti lontani, ricordando aneddoti che promuovevano qualche riso stentato, tanto per impedire che col silenzio il peso della sconfitta, quantunque prevista, gravasse maggiormente sugli animi oppressi. Ma veramente, a poco, dopo la prima scossa nel riveder l'amico, e ora per la commozione crescente nel rievocare gli antichi ricordi della gioventù, cominciava a scomporsi in loro la coscienza presente. E con una specie di turbamento segreto che li inteneriva, avvertivano in sé la sopravvivenza di loro stessi, quali erano stati tanti e tanti anni addietro, con quegli stessi pensieri e sentimenti che già da un lungo oblio credevano oscurati, cancellati, spenti. Si dimostrava vivo in quel momento in ciascuno di loro un altro essere insospettato, quello che ognun di essi era stato 30 anni fa, tal quale, ma così vivo, così presente che nel guardarsi provavano una strana impressione, triste e ridicola insieme, dei loro aspetti cangiati e quasi quasi a loro medesimi non sembravano veri. Rientrò in quel punto Antonio del Re con un nuovo telegramma. Ne erano già arrivati parecchi dalle varie sedi elettorali del collegio. Il canonico Agrò lo aprì, lo lesse con gli occhi soltanto e lo buttò in un canto, sulla sedia presso al canapè. Né Roberto né gli altri si curarono di sapere da che sezione venisse, che esito recasse. Il gesto e il silenzio dell'Agrò avevano reso inutile ogni domanda. La sconfitta del momento, che toccava alla Lauriti, rendendo evidente quella ben più grave e irrimediabile che a ciascuno era toccata dal tempo e dalla vita. E questa sconfitta pareva avesse la propria immagine scolpita in donna Caterina Auriti Laurentano, taciturna e scura. Di tratto in tratto gli amici e Roberto le volgevano uno sguardo fuggevole come a uno spettro del tempo di cui essi erano i superstiti vani. Altre voci erano nel nuovo tempo che non trovavano eco negli animi loro, altri pensieri che non entravano nelle loro menti, altre energie, altri ideali dinanzi a cui i loro animi si chiudevano ostili. E la prova era patente e cruda in quel mucchio di telegrammi sulla sedia. Era sorta improvvisamente negli ultimi giorni, ma certo preparata in segreto da lunga mano, la candidatura di un tale Zappalà di Grotte, perito minerario. Candidatura esplicitamente dichiarata come di protesta e di affermazione dei lavoratori delle zolfare e delle campagne della provincia, già raccolti in fasci. Roberto Auriti era passato in terza linea. In quasi tutte le sezioni questo Zappalà aveva raccolto più voti di lui, mettendolo così fuori di combattimento. D'un tratto spiccio e sprezzante, come si butterebbe da canto con un piede uno straccio inutile, ingombro più che inciampo. A un certo punto, quando arrivò il telegramma da Grotte, che era uno dei maggiori centri zolfiferi della provincia, con l'esito della votazione quasi unanime per lo Zappalà, parve che costui dovesse finanche contender seriamente la vittoria al capolino ed entrare in ballottaggio, nonostante il suffragio entusiastico che il campione clericale aveva raccolto a Girgenti, in compenso della grave ferita riportata nel duello. «Ma chi è costui?» domandò con solito piglio feroce Mattia Gangi. «A che rappresenta? Come viva? Che fa? Da quale chiavi che è scappato fuori? Lendo, attellato, con quell'aria di principe regnante!» Il canonico Agro scosse leggermente la testa con un sogghignetto sulle labbra e poi disse: «Aquiloni, cari amici, aquiloni, lui, il Veronica e quanti altri mai, aquiloni! Li vedete in alto ai sette cieli e rimanete a bocca aperta a mirarli. E chissà intanto qual è la mano che dà loro il filo. Può essere quella di qualche mala femmina, o il filo può venire dalla questura, o da qualche bisca notturna. Nessuno può saperlo. L'aquilone intanto è là, piglia il vento, lo segue e par che lo domini. Di tratto in tratto uno sbarione, una vertigine, l'accenno di un grollo a capofitto, ma la mano ignota sotto subito lo rialza con lievi scossatine sapienti o con larghe strette energetiche e lo rimette a vento e torna a dar filo e filo e filo. E aquiloni, cari miei, quante ce n'è, e hanno tutti la coda et in cauda venenum. Se i teste si scossero per approvare silenziosamente e con profonda amarezza l'immaginoso paragone del canonico Agro, che ne rimase egli stesso un pezzetto come abbagliato e trasse un respiro di sollievo, quasi con esso si fosse scrollato dall'anima il peso della sconfitta. Era arrivata da Comitini, paese nativo dell'Agro, una lettera che denunziava un altro tradimento. Il figlio di Rosario Trigona s'era venduto colà al partito di Capolino, spargendo la voce che Roberto Auriti si ritirava dalla lotta e pregava gli amici di votare per il candidato clericale contro il socialista Zappalà. L'Agro non si poté frenare, senza alcuna pietà per il povero padre mezzo cieco lì presente, ebbe parole di fuoco per quel tristo che gli faceva patire un così grave smacco là nella sua stessa cittadella. Roberto Auriti tentò più volte di interromperlo, s'affrettò poi a consolare l'amico, il quale dapprima si era levato in piedi inorridito, lì, per lanciarsi su quella lettera e sull'Agro. Poi si era lasciato cadere di peso sulla seggiola, rompendo in singhiozzi, col volto tra le mani. Filippo Noto disse: «Ma sarà una calunnia, Rosario, una calunnia, vedrai. Tuo figlio avrà agito in buona fede, credendo di interpretare il mio pensiero. Difatti, tra i due, tra il Capolino e quello Zappalà, via, meglio che i voti siano andati al Capolino. Ha stimato insostenibile da parte mia la lotta e no, e no!» muggiva tra i singhiozzi Rosario Trigona, inconsolabile. «Infame! Infame!» Per fortuna sopravvenne Mauro Mortara, che da Valsania si era recato a Colimbetra per accordarsi col principe circa la sua andata a Roma. Non sapeva nulla delle elezioni. Accolto con festa da Marco Sala, dal Ceraulo e dal Gangi, i quali non lo vedevano da tanto tempo, scostò tutti con le braccia e quasi si inginocchiò ai piedi di donna Caterina, prendendole una mano e baciandogliela più e più volte. Abbracciò poi Roberto e si chinò a baciarlo al suo solito modo, in petto, sul cuore. «A Roma!» disse. «Sapete, vengo a Roma!» Ma il suo giubilo non trovò eco. Tutti erano ancora sconcertati e commossi dal pianto del Trigona. «Oh, don Rosario!» esclamò Mauro. «E che avete? E perché piangete?» Guardò tutti in giro e appuntò gli occhi sul canonico Agro, che appariva il più scuro e il più turbato. «Niente», disse subito Roberto, «una notizia senza dubbio infondata. Signori miei, per carità, soffro della vostra pena, molto più che per me. Ma volete farmi contento? Non parliamo più di nulla. Quel che è stato, e basta». Quando Quando dalla Badia Grande gli amici scesero alla via Atenea, si trovarono presi in mezzo a una fiumana di popolo che esaltava la proclamazione di Ignazio Capolino. La carrozza del canonico Agrò si dovette fermare. Il vecchio servo cocchiere, dalle zampe sbieghe, faceva schioccar la frusta. «Oi! E favori! Favori!» Poteva mai figurarsi che si dovesse mancare di rispetto al suo padrone o che questi dovesse aver paura? E tra il clamore e la confusione non udiva la voce del canonico che gli gridava «Indietro, gola! Indietro! Per la via del purgatorio!» Un fischio e due e tre. Ah, figli di cane! Ma Capolino era ancora a letto, convalescente, nella villa del principe di Laurentano a Colinvetra, e la dimostrazione di giubilo, per darsi uno sfogo diretto, fu proprio tentata di cambiarsi lì per lì in dimostrazione di protesta contro il canonico Agrò. Per fortuna, i caporioni riuscirono a stornare la bufera che stava per rovesciarsi sulla carrozza malcapitata, non per riguardo a Pompeo Agrò, che non ne meritava alcuno, ma all'abito che indossava indegnamente. Qualche fischio, sì, passando, non sarebbe stato sprecato. Poi, via, via, alla passeggiata, sotto la villa di Flaminio Salvo. Viva Ignazio Capolino! Viva! Viva il nostro deputato! Viva! Nel buio della sera, sotto il pallore dei lampioni, per l'angusta via, passò tumultuando quel torrente di popolo che si lasciava trascinare senza il minimo entusiasmo come un armento velante dalla volontà di due o tre interessati. La villa di Flaminio Salvo era illuminata tutta, splendidamente, perché si vedesse come segno di trionfo dalla lontana Colinvetra. Vi erano raccolti i maggiorenti del partito, che si affacciarono tutti al gran balcone della balaustra di marmo, appena i clamori della dimostrazione si fecero sentire giù per il viale. «Viva Flaminio Salvo! Viva! Viva Ignazio Capolino! E viva!» Salì alla villa una commissione di dimostranti che fu accolta dal Salvo con quel solito sorriso freddo a cui lo sguardo lento degli occhi sotto le grosse palpebre dava un'espressione di lieve ironia. E veramente, quei 15 o 16 cittadini accaldati, usciti or ora dalla moltitudine anonima che era giù nel buio del viale, aveva tanta imponenza, assumendo lì ciascuno il proprio nome, il proprio aspetto. Timidi, impacciati, smarriti, ossequiosi, facevano una ben misera figura tra gli splendori del magnifico salone. Flaminio Salvo si dichiarò grato alla cittadinanza di quella spontanea affermazione del sentimento popolare. Diede notizie della salute dell'onorevole Capolino e, in presenza della commissione stessa, pregò l'ingegnere Aurelio Costa di recarsi sul momento alla villa del principe a Colinvetra per darvi l'annunzio della proclamazione e di quella manifestazione di giubilo di tutto il popolo dei dirigenti. Giù, confuso tra la folla, era il Pigna, arrivato in coda alla dimostrazione, espurgato, smaltito, evacuato dalla stessa con molta violenza di conati lungo tutto il percorso. Prepotenza, sopraffazione, se l'erano sballottato così, malmenandolo in tutti i modi, fino a che, pesto e disfatto, non s'era lasciato andare alla corrente. Ma con le proprie gambe, no, no, là, così, trascinato, selvaggi mascalzoni, coscienze vendute, che spettacolo! Girgenti, disonore della Sicilia e dell'umanità, ludibrio, vituperio. Tutto in sacrestia, sì sì, domani ad attaccare con le ostie della chiesa le mezze carte da 5 lire. Eh sì, evviva Capolino, evviva Salvo, evviva Bacco, evviva Mammone! Così esclamando e guardando con aria di dispetto minaccioso la folla sotto la villa del Salvo, ora s'accomodava una spalla, ora soffiava, ora sbruffava, ora sorsava col naso e sputava, feccia dell'umanità, vili ignoranti. Quando Aurelio Costa arrivò a Colimbetra, don Ippolito Laurentano sapeva già della proclamazione di Capolino e ne parlava nel salone con don Salesio Marullo e con Ninì De Vincentis. Il primo ha corso subito da Girgenti appena conosciuto l'esito del duello. Il secondo, dopo lo scontro a cui aveva assistito da testimonio, rimasto a Colimbetra accanto al letto del ferito. Zio Salesio ascoltava il principe con un'aria di degnazione contegnosa, come se Capolino lo avesse fatto eleggere lui. Ma sì, via, non gli aveva dato in moglie la figliastra. Ninì De Vincentis pareva non si fosse rimesso ancora del tutto dallo spavento che s'era preso nel veder Capolino piegarsi sulle gambe, ferito in petto dalla pistola del Veronica al secondo colpo. Era stata veramente una terribile sorpresa per tutti, quella ferita. Le pistole, per tacita intesa fra i padrini, erano state caricate in modo da non produrre alcun effetto, volendosi che il vero duello avvenisse alla sciabola. E meno male che la palla, arrivata senza troppa violenza, aveva appena appena intaccato una costola ed era deviata dal cuore. Ma non solo quello spavento teneva ancora il povero Ninì tanto abbattuto e sbalordito. Nicoletta Capolino gli aveva lasciato intendere chiaramente che Dianella Salvo non era né sarebbe stata mai per lui, quando anche il padre non avesse opposto un così reciso rifiuto alla domanda. Dopo la prima notte, vegliata accanto al letto del marito, nonostante l'assicurazione dei medici che ogni pericolo, per fortuna, fosse scongiurato, Nicoletta si era persuasa che non era più il caso di rappresentare la parte della moglie disperata, come aveva fatto a Balsamia all'annunzio della ferita toccata a Ignazio suo, e s'era messa ad alternare le cure amorose e diligenti al suo povero paladino ferito con lo studio sapiente di rimaner lì a Colimbetra nella memoria di don Ippolito Laurentano, ospite graditissima. Ah, se al posto di quella foca di Adelaide Salvo fosse stata lei, là, tra poco regina di quel piccolo regno, era certa che tutte le parti buone di cui si sentiva pur dotata e che la sorte aveva voluto opprimere e soffocare in lei si sarebbero ridestate liberamente e avrebbero preso alla fine in lei il sopravvento. Ma certo che avrebbe saputo render felici gli ultimi anni di quell'altero e bellissimo vecchio, ancor così vegeto e fresco. Per quella serata Ninì De Vincentis fu lasciato in pace da Nicoletta, ma non gliene fu grato affatto. Aveva preso gusto alla tortura. E fu tutta per Aurelio Costa, Nicoletta, quella sera, e volle proprio inebriarlo, volle che egli interpretasse segretamente tutte le premure e gli sguardi e i sorrisi di lei come un compenso all'incarico ingrato impostogli da Flaminio Salvo di venire, cioè là a Colimbetra, ad annunziare il trionfo del marito. E volle che in quel compenso che ella gli dava, egli sentisse un sapor di vendetta contro il Salvo stesso, il quale, pur conoscendo i sentimenti di lui, lo aveva mandato lì come un servo. Considerava egli tutti come suoi schiavi venduti. Beh, poteva anche darsi però che questi schiavi, alla fine, così provocati, accettassero la sfida e si intendessero tra loro. Non si intendevano già. Non c'era già tra loro un accordo, un patto segreto, eh? E gli occhi di Nicoletta Capolino, fissi in quelli di lui, ora sfolgoravano dispettosi e ardenti, ora si languidivano velati e turbati, quasi nella promessa di un'intensa voluttà. Schiavo, schiavo con lei si sarebbero vendicati di tutti quei vecchi che volevano tenere schiavi loro due giovani. Per lei, d'ora innanzi, egli avrebbe amata la sua schiavitù e non avrebbe più pensato di diventar padrone, anche se Dianella Salvo gli avesse fatto intendere apertamente il suo amore. Schiavo, schiavo con lei. Ah, era veramente come ebro Aurelio Costa avvampato in volto da una gioia riconoscente verso quella donna, quando, a tarda sera, lasciò Colimbetra. Non sapeva che pensare. Il sangue gli frizzava per le vene, le orecchie quasi gli rombavano. Era ella così, per abito o per natura, lusinghiera con tutti? O per lui unicamente aveva formato quei sorrisi e trovato quegli sguardi e quelle premure? Doveva dubitarne o esserne certo? E se certo, per quale ragione si era indotta così d'improvviso a tentarlo, a provocarlo, dopo aver opposto tanti anni fa un così reciso e sdegnoso rifiuto all'onesta domanda di lui? Se n'era pentita, eh? Stanca, nauseata della parte infame che le aveva assegnato il marito, voleva ribellarsi e vendicarsi, scegliendo per la vendetta chi onestamente un giorno aveva voluto farla sua. Voleva ora dargli questa rivincita sopra colui per il quale lo aveva allora rifiutato? O voleva tendergli un'insidia? Giunto alla villa di Flaminio Salvo, ora silenziosa e buia, Aurelio Costa lasciò nella scuderia il cavallo e salì nello studio ove il Salvo lo aspettava. Questi notò subito il turbamento, l'animazione insolita nel volto e nelle parole del giovane, che si scusava del ritardo per essere stato trattenuto a cena dal principe. Ascoltandolo, lo fissava con acuta investigazione e appena Aurelio chinava gli occhi, accentuava un po' più il solito sorriso effuso in tutti i lineamenti del volto, che un po' di stanchezza quella sera faceva apparir più floscio. «Me l'aspettavo», gli disse carezzandosi le basette. «Credetti che...» si provò ad aggiungere a Aurelio. «Ma sì, hai fatto bene», lo interruppe subito il Salvo. Che buon'aria porti da fuori! Deve far bene una cavalcata a quest'ora in campagna. Bella serata. Qua si soffoca. Quando sarai vecchio, te ne ricorderai». «Io?» domandò Aurelio, indotto a sorridere dal tono amorevole con cui il Salvo gli parlava, quantunque le parole, dopo le riflessioni fatte nel venire, lo ponessero in sospetto. «E perché?» «Ma, dico forse...» sospirò il Salvo, accompagnando un'alzata di spalle con un gesto vago della mano. «Ma veramente... tu ci sei avvezzo, di giorno, di notte, in giro, vita mossa la tua. Ma forse questa gita è stata speciale. Vedi, quando siamo vecchi, ci si accendono così, a lampi, ricordi, visioni lontane di noi stessi, quali fummo in certi momenti. E non sappiamo neppure perché quel momento e non un altro ci sia rimasto impresso. E a un tratto ci si stacchi e guizzi sperduto nella memoria. Era forse un ricordo più ampio di tutto un brano di vita. Si è spezzato e resta viva una sola scena, vivo un solo momento, un attimo, e ti rivedrai a cavallo in una notte serena sotto le stelle, e forse invano ti sforzerai di ricordarti quali pensieri avevi in quel punto in mente, quali sentimenti nel cuore. «Ma questo avviene anche senza essere vecchi», osservò Aurelio. «Non è lo stesso», rispose il Salvo, «e te ne accorgerai». E restò un pezzo con gli occhi immobili e fissi, senza attenzione.